aveva proposto appunto di incontrarci per qualche tema interessante, allora abbiamo varato insieme ad alcuni amici alle... Buongiorno. Niente, sai, i temi che avevamo, che erano stati proposti, avevamo visto un po' in famiglia un gruppo di 5 o 6 persone che oltre al resto ti aveva proposto questo, non so se venga perché è stata operata di recente, allora avrà qualche difficoltà. I temi mi paiono abbastanza interessanti, perché sono temi di attualità, sono temi di interesse personale ed ecclesiale, comunitario, alcuni con dei riflessi anche sociali, politici, se volete, no? Vediamoli un momento questi cinque argomenti, tanto per ambientarli, poi andiamo al primo. Per cominciare proprio dagli inizi, il peccato originale non poteva mancare perché oggi è una delle questioni più dibattute a livello dottrinale e a livello anche così pastorale, cosa fare per il battesimo, che significato ha il battesimo, dobbiamo continuare a dare il battesimo ai bambini, bisogna riservarlo agli adulti, cosa bisogna fare, ecco. E poi che senso ha sto benedetto peccato originale, nel senso che una colpa di un'ipotetica copia degli inizi avrebbe guastato tutta l'umanità per sempre, avremmo alle spalle un Dio così vendicativo che per il capriccio, mettiamo piccolo per la verità, quello di ufficialmente di disubbidire mangiando una mela, che poi vedrete che la mela non c'è, ecco, avrebbe castigato, ma questo è un po' assurdo e anche impossibile, un Dio del genere, lasciamolo perdere, non incontriamolo mai nella nostra vita, ecco. E sono tutte queste questioni che però si dibattono al presente, non si sa che pesci pigliare nella predicazione. Vedete che i preti o non ne parlano più o se ne parlano, spesso si tratta dei tradizionalisti che continuano imperterriti a predicare come predicavamo 50 anni fa, senza tener conto che c'è stato un concilio, senza, ecco, e sono problemi grossi, il peccato originale. Poi perché si chiama originale? Cosa dice la Bibbia, cosa dice la liturgia, cosa dice la teologia, sono temi estremamente allettanti. Ecco. Mi riferisco anche e soprattutto alle difficoltà che hanno certe catechiste, le quali, ecco, molto generosamente, soprattutto maestre, eccetera, si prestano per la catechesi nelle parrocchie. Ecco, si tratta di persone che hanno una certa preparazione culturale, fondo, ma alle volte in chiave di teologia non hanno molta preparazione, alle quali il parroco dice: senti per favore, cioè, non so che pesci pigliare, fammi il catechismo tuo, la prima, la seconda, la terza, per quelli della cresima, eccetera. E allora mi sembra che una delle principali difficoltà ce l'abbiano proprio a proposito del peccato in genere, del peccato originale in specie, è un tema che affronteremo oggi. Il secondo mi sembra altrettanto interessante e importante per conoscere l'humus, no? Cioè il terreno sul quale sono nati e si sono avviati i Vangeli, che cosa ci sta dietro. I Vangeli dicono qualche cosa, i Vangeli presentano un Gesù che parla, un Gesù che opera, ma opera in un ambiente, che ambiente? Opera secondo una determinata cultura, che cultura? Parla secondo determinate categorie che sono quelle dell'antico Medio Oriente, ecco, che noi conosciamo adesso ancora un po' per sentito dire, un po' meglio perché vediamo tutto quello che succede nel Medio Oriente, ma ecco, quali sono le leggi, la mentalità, gli usi, i costumi quali Gesù ha avuto a che fare, che hanno il loro riflesso nei Vangeli, no? Leggere i Vangeli e non conoscere un po' questo ambiente significa essere buttati in un mare senza essere capaci a nuotare, ecco. Allora pensavamo che fosse un tema molto importante. Poi un tema dedicato alle donne, visto che c'è di mezzo, ecco, la parte del genere umano che vuol prendere il sopravvento, detta degli uomini, sui maschi. Allora, visto che la Bibbia sembra dare addosso alle donne, visto che la Chiesa dice tante belle cose e le mette sull'altare, però non le lascia avvicinare all'altare, ecco, le mette sopra, in alto, ma guai se si avvicinano all'altare a fare qualche cosa. Adesso è uscito l'altro giorno di nuovo, me l'ho preannunciato, un documento della congregazione dei riti, non l'ho ancora letto, ma sembrava andare nella proibizione totale addirittura delle chierichette. Ecco, allora le vostre figlie che si vestivano così belle, che ci accompagnavano all'altare, adesso diventano sempre più pericolose, ecco, per la tentazione dei preti, dei parroci, e per la tentazione dei fedeli, che dice, quelle sono già lì, qui a un momento poi danno la consacrazione, diventano prete, ecco, cosa fare? Non importa che altre confessioni cristiane l'abbiano già fatto, ma anche lì dove l'hanno fatto, sapete, nella Chiesa anglicana, addirittura fino all'Episcopato, hanno suscitato divisioni, un sacco di guai. Eppure la Bibbia trasmette dei messaggi molto belli sulla donna. Gesù, sapete tutti come si è comportato con le donne. Le prime annunciatrici della risurrezione sono le donne, non gli uomini, sono le donne. I primi apostoli sono le donne. Se non ci fosse stato l'annuncio della risurrezione, il cristianesimo non ci sarebbe, l'Evangelo si sarebbe fermato, non sapremmo nulla di Gesù, niente. E allora tutto questo lo dobbiamo alle donne. Come mai poi invece agli uomini l'hanno sempre fatta tacere? Come mai Paolo dice le donne in chiesa tacciano e non c'è... Vedere un po' queste questioni, ecco, molto, molto di attualità anche. Ecco, tutte queste questioni, anche quelle delle sacerdozze alle donne, legato proprio al quarto argomento, quello del sacerdozio di Gesù. Cosa significa nel Nuovo Testamento di Gesù il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedeca? Molto strano, sapete tutti che il sacerdozio biblico dell'Antico Testamento, il sacerdozio che Gesù ha trovato al Tempio di Gerusalemme, è il sacerdozio secondo Aronne. Aronne era fratello di Mosè, e Mosè aveva affidato il sacerdozio, aveva ordinato la classe sacerdotale, secondo la tribù, affidata alla tribù di Levi, i Leviti. Allora, il sacerdozio era levitico, era ereditario il sacerdozio dell'Antico Testamento. Non era vocazionale, era ereditario e era esercitato all'interno della tribù di Levi. Nessun altro, uno che fosse stato della tribù di Giuda, non poteva essere sacerdote secondo l'Antico Testamento. Gesù era della tribù di Giuda, per esempio, allora non ha potuto essere sacerdote secondo l'ordine di Aronne. E questo significa che tutto il sacerdozio antico è decaduto nella persona di Gesù, e Gesù è stato uno talmente nuovo e talmente laico, per cui non è venuto in mente a nessuno, a nessunissimo, di pensare che potesse essere sacerdote secondo l'Antico Testamento. Anzi, si vedevano solo le opposizioni di Gesù con il sacerdozio antico, anche perché Gesù si era urtato con tutti, col sommo sacerdozio del suo tempo. Chi l'ha condannato a morte sono i sommi sacerdoti e il sinedrio, sono questi, ecco. E allora su fin verso gli anni 70, pensate, dopo Cristo, non si è parlato di preti nella Chiesa, nelle origini, nella comunità dei credenti in Cristo, delle origini, tantomeno si è pensato a Gesù sacerdote. Allora sa, quando noi ingenuamente diciamo che il clero che avete, io prete sarei nato nel cuore di Cristo la sera del Giovedì Santo, con tutte pie e frottole, per essere chiari. Ecco, no, ci sarà una verità, ma indubbiamente molto diversa da come la si propone, da come solitamente la gente la pensa. Tutto questo è da integrare attraverso un solo scritto del Nuovo Testamento che parla del sacerdozio di Gesù, che, come sapete, che testo è del Nuovo Testamento, che è l'unico che parla del sacerdozio di Cristo, dicendo che è unico, sommo ed eterno, e quindi non ce n'è bisogno di nessun altro. Quindi via i preti, basta. Non si tratta di dare il sacerdozio alle donne, si tratta di toglierlo anche ai laici, anche ai preti, ecco, per vedere come reimpostare il tutto secondo l'ordine di Melchisedec, secondo il sacerdozio di Gesù. Adesso sparo delle cose grosse per scandalizzarvi subito un po' in partenza, ma poi le preciseremo. È un tema veramente essenziale oggi, anche per il fatto che non ci sono più preti, allora la Chiesa va alla fine, allora è Dio che lascia mancare la cosa principale che abbiamo sempre detto alla comunità, il sacerdozio, oppure può essere anche qui un momento, ecco, di grazia dello Spirito che costringe la comunità dei credenti a ripensare secondo il progetto delle origini tantissime cose. Beh. Ecco, poi andiamo al quinto, il problema della sofferenza. Il problema della sofferenza, che è sempre un problema di estrema attualità, perché c'è tanta sofferenza attorno a noi e poi presto o tardi anche noi soffriamo per qualche o per parecchi motivi. E allora sentite che passano per veramente credenti, soprattutto quelli che hanno il coraggio di dire: grazie Signore della sofferenza che mi mandi, io l'accetto e mi unisco alla passione di Cristo. Sarà poi molto cristiano un esprimersi così? Cosa pensare della sofferenza? Cosa dobbiamo rassegnarci alla sofferenza? Dobbiamo dire che è Dio che ce la manda? Dobbiamo aggiungerla alle sofferenze di Cristo? Cosa dobbiamo pensare in materia? Ma tutta questa tematica che è amplissima, è ben, no? Ce n'è abbastanza di allettante. Per quanto adesso riguarda il primo, io ho pensato e ripensato anche ieri sera, nonostante che poi siamo stanchi, perché con Stefano abbiamo lavorato tutta la settimana a pulire un po' qui e da altre parti, avevo detto: ma bisogna che ripensi il tutto, che riproponga il tutto. E poi io ho visto che tutto sommato forse quello che volevo dire l'avevo già detto in un libretto alcuni anni fa, che avevo intitolato il giardino nella Bibbia. E perché, a differenza del paradiso, delle origini come luogo di perdizione e di condanna, dove tutti i piani di Dio sono saltati per quel benedetto peccato originale, ecco, mi pare tanto che la Bibbia più onestamente metta l'accento sul paradiso, metta l'accento sul giardino. La creazione dell'uomo è venuta fuori, ma poi Dio ha portato l'uomo in un giardino e gli ha detto: ecco, cresci, moltiplicati, custodisci, sii signore del giardino, signoreggia il giardino, non nel senso fai man bassa su tutto quello che vuoi e come vuoi, no, ma sii signore come io, sono signore della creazione, così anche tu sii signore e custode del giardino. Uomo creato giardiniere, ecco. E allora come mai poi il lavoro è diventato una cosa così pesante? Come mai, ecco, nessuno lavora volentieri il giardino? Come mai tutti o quasi aspettano di andare presto in pensione perché non ne possono più? Ecco, cosa, che valore, che significato ha il giardino nella nella Bibbia è il peccato che deturpa il giardino. Ma volevo farvi considerare il peccato nel giardino, tenuto conto del fatto sorprendente che non so se l'avete rilevato qualche volta o l'avete rilevato in occasione, per esempio, dell'ultima Pasqua, appena fuori, siamo dentro l'alleluia pasquale, siamo appena fuori dalla grande festa. Vi siete resi conto che Giovanni ambienta passione, morte e risurrezione di Gesù in un giardino? Allora il giardino delle origini è il giardino della passione e morte di Gesù, del mistero pasquale. Cosa che non fanno gli altri evangelisti. Giovanni, pensate un po' dove avvia e quando avvia il racconto della passione nel Getsemani. Lo chiama giardino, un giardino, andarono oltre il cedro, no? Dopo la lavanda dei piedi, dopo quel lungo discorso che Giovanni mette in bocca a Gesù, i capitoli 15, 16, 17, Giovanni non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, sapete, lo sostituisce con il racconto della lavanda dei piedi, perché Giovanni dice, secondo me, e questo è il vero significato dell'Eucaristia, fate questo in memoria di me, significa amare gli altri, disposti a lavare i piedi al prossimo, ma quelli sporchi sul serio, non quelli che sono già lavati e profumati per l'occasione del Giovedì Santo in San Pietro o nelle nostre arcibasiliche, ecco, regionali o locali, no? Ecco, allora l'Eucaristia è lavare i piedi al prossimo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco, fatto questo, poi Giovanni dice uscirono, andarono nel giardino che il Getsemane è stato a Gerusalemme, avrà fatto l'esperienza del Getsemane, che forse l'esperienza più, come dire, più significativa che si può fare a Gerusalemme, perché è ancora più impressionante del Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro ormai è coperto dall'anastasi, dalla grande basilica là dove cattolici ortodossi rissano per avere l'orario delle messe, eccetera, allora là dentro si è allucinati un po' il Getsemani, i vecchi centenari o millenari vi danno ancora la sensazione, poi quella basilica abbastanza indovinata dell'agonia, ecco, col cielo cupo però l'azzurro in alto, ecco, vi dà una sensazione, vi fa accapponare la pelle, soprattutto poi c'è il Getsemani, ci arrivate scendendo dal cenacolo, dalla Sion cristiana, percorrendo la scala che passa accanto al Gallicanto, che è stata riscoperta da poco e rimessa in funzione, la strada romana, che forse fu quella percorsa da Gesù e dagli apostoli quella sera, e vi sentite veramente, Gianni dice un giardino. Poi andate al momento della sepoltura, vi dice che Giuseppe d'Arimatea aveva la tomba in un giardino, vi dice, allora, e poi avete Maria Maddalena che vi parla di giardiniera, e dice, ma vide il giardiniere e gli chiede, se sei tu che hai portato via mio Signore dal sepolcro, dimmelo dove l'hai. Ma era lui, era il risorto, era il giardiniere, perché il risorto nei Vangeli prende sempre le mentite spoglie accompagnatore a seconda del luogo dove vi trovate. Maria Maddalena e giardino, allora incontro il giardiniere. I due discepoli di Emmaus, secondo Luca 24, sono sulla strada del ritorno a casa, pellegrini, ma significano già la chiesa, pellegrini, no? E allora incontrano il risorto come pellegrino, come uno che cammina sulla strada con loro. Gli apostoli, che sono dubbiosi, in difficoltà nel cenacolo, incontrano, vedono il risorto come un fantasma che quasi fa loro paura. quando gli apostoli sono tornati a pescare sul lago di Gerusalemme, sul lago di Genezaret, incontrano il risorto come il gestore della cooperativa dei pescivendoli e al mattino viene loro incontro e chiede: avete del pesce da vendere? Guardate che sono profonde queste cose. Noi diciamo una bella fantasia hanno gli orientali, certo che gli orientali hanno una bella fantasia, ma per passarci dei messaggi veramente misteriosi, veramente di fede, veramente, ecco, chi ha fede in Gesù risorto, incontra il Gesù risorto nell'angolo dove vive, sulla strada, sul lago, in montagna, in campagna, a casa, in mezzo ai fornelli, eccetera, incontra delle altre persone. Il giardino della Pasqua, ecco. Allora mettiamo in parallelo il giardino delle origini con il giardino della Pasqua, ecco. Perché Giovanni fa questo parallelo? Ma a Giovanni questo parallelo è caro per parecchi motivi, perché Giovanni vuol dire che in Gesù tutto riprende da capo, in Gesù inizia una storia nuova, ecco i messaggi che ci sono dietro, o mica nel senso tutto arriva il dittatore, il vittorioso che taglia la testa a tutti e la fa buona, no, nel senso che se hai fede cominci dentro di te e vedi le cose in mondo nuovo, in un modo nuovo, come l'innamorato che quando si innamora ed è tutto diverso, e tutto continua come prima, ma è tutto diverso, è tutto nuovo. Ecco, allora Giovanni dice: state attenti con Gesù, con la sua morte soprattutto, col suo entrare nella gloria, perché per il quarto evangelista la morte di Gesù è entrare nella gloria del Padre, io sono venuto dal Padre, ritorno al Padre. Giovanni non aspetta il mattino di Pasqua per far risorgere Gesù, per Giovanni il momento della morte è il momento dell'ascensione, è il momento della risurrezione, è il momento della gloria piena di Gesù. Allora è in questo momento che tutto inizia nuovo, perché i meriti della passione, della morte di Gesù sono salvezza per il mondo, perché ci dicono che è Dio che con il suo amore infinito ama tutta l'umanità. Questa è la salvezza, questo è il mondo nuovo. Altri evangelisti sapete che ricorrono ad altri mezzi, per esempio quando vi dicono, lo vedremo poi trattando del sacerdozio, quando vi dicono che il velo del Tempio, la morte di Gesù, si sciolse, si spezzò da capo a fondo, vuol dire che cessa il vecchio sistema liturgico, cessano tutte le preoccupazioni legate alla liturgia del Tempio, là dove poteva avere accesso a Dio soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, il giorno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, il giorno che gli ebrei celebrano ancora, il giorno del perdono, sarebbe quel nostro venerdì santo se volete, ecco, solo in quel giorno, ma soltanto il sommo sacerdote, no, dice basta, bene, con la morte di Gesù tutti hanno accesso all'amore di Dio, senza più chiedere il permesso a nessuno, né manco al Papa, né manco ai preti, tutti possono avere accesso al cuore di Dio, perché Gesù ha manifestato l'amore universale di Dio per tutta l'umanità, poi il Papa, i preti, i vescovi, le chiese potranno darvi una mano se veramente ve la daranno per scoprire questo, ma questa è la dottrina. Allora, il giardino che si apre, Giovanni, ripeto, ha caro questa contrapposizione che anche gli altri evangelisti poi rappresentano in altri modi, no? Vi ho detto quelli del Tempio, ma anche quando vi dicono che alla morte di Gesù si fece buio su tutta la terra, ma volete pensare che sono venute 3 ore di buio, terremoti, se andate là certo vi fa vedere le rocce spaccate per quel terremoto, ma non siate così stupidi da credere materialmente a quelle cose lì sono teologiche per chi ha un po' di conoscenza nella Bibbia. Poi dei terremoti ne succedono sempre anche a Gerusalemme, se andate in Oriente soprattutto le grandi basiliche antiche, i grandi monumenti, le grandi civiltà sono state travolte tutte dai terremoti, era un'altra faccenda. E allora hanno preso il simbolo del terremoto per dire che il vecchio mondo era saltato, ecco, bisognava ricostruire di nuovo tutto da capo, e si fece buio su tutta la terra, i morti risuscitano, sono risuscitati dei morti a Gerusalemme, ma non sono risuscitati per niente, nel senso che pensiamo noi, non è ancora risuscitato lui, volete che risorgano già i morti di Gerusalemme prima di della risurrezione di Gesù? È un modo per dire, attenzione che la morte di Gesù è una porta, una vita misteriosa, che è come se tutto risorgesse nuovamente, riprendesse vita. Ecco. Ma Giovanni l'aveva già detto questo fin dal primo momento. Ecco l'aggancio tra la nuova creazione, l'antica creazione, tra il giardino della risurrezione e il giardino del peccato, il giardino delle origini. Giovanni inizia il Vangelo, vi ricordate come inizia il Vangelo? Provate un po' a pensare come inizia. In principio, lo dicesse in greco è arché, in principio, ma se l'avesse detto in ebraico, Gesù parlava ebraico, avrebbe detto bereshit, inizio. E pensate un po' a una frase della Bibbia dell'Antico Testamento. Genesi 1:1, le prime parole, visto che qualcuno ha la Bibbia, cerchi un po' Genesi 1:1. In ebraico c'è bereshit, esattamente, in principio Dio creò il cielo e la terra, in principio. Giovanni dice, quello è il principio della vecchia creazione. Io vi annuncio adesso la nuova creazione che origina da capo, in principio era il Logos, e il Logos significa in latino, traduciamo verbo, ma verbo dice poco, no? Il verbo fa pensare ai verbi, mentre in greco Logos, verbo, significa, viene tradotto per parola, ma se pensiamo che parola, qualunque parola, esiste perché alla parola che dite c'è dietro un'idea. Se dite la parola casa è perché abbiamo l'idea della casa, se diciamo la parola orologio è perché abbiamo l'idea dell'orologio, no? E allora se alla parola, alla parola logo sostituiamo progetto, per esempio, allora viene molto chiara la cosa. In principio Dio aveva un progetto. E questo progetto era che l'umanità diventasse Dio, che tutti gli uomini potessero essere figli di Dio. Per questo Gesù è figlio di Dio, primo, principale, unico, ecco, però con lui tutti gli uomini possono diventare figli di Dio. Ecco, allora avete la novità annunciata da Giovanni nella fede. Gesù Salvatore, Gesù Redentore, contrapposta all'antico progetto, ma un progetto che però Dio aveva già in mente quando ha creato il mondo, prima ancora, anzi ha creato tutto in funzione del Verbo. Il principio era il Verbo era presso Dio, niente è stato fatto di quello che è stato fatto se non in vista del Verbo, di questo progetto, eccetera. Questo progetto era che gli uomini potessero diventare figli di Dio. A coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da carne, non da sangue, non da volere d'uomo, ma da Dio sono nati, cioè attraverso una generazione più alta, una generazione di fede, non soltanto legata alle categorie del sangue. Ecco, no, questo confronto, questo aggancio all'Antico Testamento è molto importante, anche perché modifica completamente le prospettive ebraiche e le prospettive della teologia antica, dell'Antico Testamento e anche la teologia di tanti oggi, perché non significa che la teologia di tanti, o la catechesi, se volete, di tanti 20 secoli dopo Cristo sia tanto furba se non ha rispettato la crescita della rivelazione dovuta al Nuovo Testamento. Perché siamo sinceri, lo diremo chiaramente parlando poi del sacerdozio, noi abbiamo ricostruito più l'Antico Testamento che il Nuovo. La nostra Chiesa è tutta ricostruita sullo scheletro dell'Antico Testamento più che sul Nuovo. Avremo modo di fare degli esempi. Ecco, qui avete l'antico progetto, come l'hanno sentito gli ebrei, i quali hanno pensato che Dio avesse creato tutto, il cielo, la terra, l'umanità, eccetera, in vista, attenzione, in vista dei 10 comandamenti da consegnare a Mosè sul Monte Sinai. In vista, gli ebrei non potevano che pensare così, nella sua fede, per carità, fede eccellente, ma la tradizione ebraica si era fatta l'idea che tutta la creazione, che capito del popolo eletto, questa idea così bella e così triste e così terribile di pensare che Dio abbia scelto un popolo per gli altri, non li ha scelti, dove andiamo? Ecco l'idea della elezione, che agli inizi era una grande bella idea, perché tutti siamo convinti di essere scelti e amati da Dio, quindi ciascuno si sente eletto, scelto in questo senso, e Israele nella sua umiltà originaria ha pensato che, visto che non era niente, che erano un pugno di schiavi e sono diventati un popolo all'onore del mondo nel Medio Oriente, tanto da arrivare, ecco perché ho messo la fascia, ai tempi di Davide verso il 1000 avanti Cristo, all'onore del mondo, avere addirittura un impero che reggeva al confronto degli imperi del Medio Oriente, Israele ha detto: questo è grazia di Dio, questo è elezione, soltanto siamo così perché soltanto Dio ci ha resi così. E allora la riconoscenza, i salmi, tutta la liturgia, questo è bellissimo. Però poi hanno esagerato un po', perché hanno pensato che Dio se fosse rimasto lì e si fosse preso soltanto Israele e tutti gli altri li avesse abbandonati al loro destino. Non è vero? L'elezione, che all'inizio fu un momento di umiltà, perché riconoscevano che Dio aveva fatto lui, gran parte per Israele, tutto quello che aveva fatto, l'alleanza dono di Dio, ha finito di diventare un motivo poi di superbia, anche di razzismo spirituale sotto tanti aspetti. Ecco, e allora si erano montati un po' e avevano pensato che il tutto, Dio, tutto quello che era stato fatto, e avete allora i primi capitoli della Genesi dove parla della creazione del mondo, poi avete col capitolo 12 della Genesi incomincia la storia di Abramo, la storia del popolo ebreo, poi arrivate all'Esodo, all'uscita dall'Egitto, l'alleanza, il cuore di tutta la Torah ebraica, di tutto il Pentateuco, la legislazione mosaica che ancora adesso gli ebrei riferiscono a Mosè. Ecco. E allora tutto il progetto di Dio era arrivare all'alleanza con Israele, arrivare alla consegna dei 10 comandamenti, quello e nient'altro. Che poi i 10 comandamenti li abbiano proposti e su tavole di pietra, anche lì lasciate cadere la fantasia del dito di Dio che scrive, sono immaginazioni molto belle, perché Dio ha questo potere di scrivere nei cuori in maniera invisibile la sua legge, ma gliel'hanno fatta scrivere su tavole di pietra semplicemente perché tutte le leggi antiche erano scritte su tavole di pietra. Quelli che fra di voi sono andati al Louvre e avevano interessi storici archeologici hanno visto certamente la famosa stele del codice di Hammurabi. Hammurabi l'avete segnato lì nel 2000 avanti Cristo, ecco il codice della stele, c'erano scritte le leggi di Hammurabi, alcune delle quali hanno ispirato anche le leggi mosaiche. Ecco, le leggi romane erano tutte scritte su tavole di pietra, no? Le pubblicavano così, quindi anche il buon Dio ha scritto i 10 comandamenti, ma nei 10 comandamenti ci sono delle cose che poi Gesù ha detto: per carità, non pensate che quelle appartengano ai 10 comandamenti voluti da Dio, quelle sono l'interpretazione che gli ebrei, legati alla cultura di quel tempo, hanno dato alla parola di Dio. Dobbiamo fare un esempio su questo punto, dilungo un po' su questo per farvi entrare nella complessità del mondo biblico, nella complessità di tutto un discorso, che se no diventa lì un raccontino che se lo prendete alla lettera è finito, non ne venite più fuori. Dietro c'è tutto un mondo infinito. Prendete un po' il decalogo, ecco, accendiamo la luce, sì, perché qui Decalogo, Esodo 5, Esodo, sì, ce n'è uno in Esodo, andiamo a vedere Esodo capitolo 15, no? Esodo 20, sì, scusa, Esodo 20. Da presentare un Dio che Gesù smentirà del tutto. Anche perché state attenti che Gesù ha detto no, i 10 comandamenti, basta i 10 comandamenti. Attenzione, ricolleghiamoci al problema della catechesi. Se andate a vedere la povera catechesi in giro, ecco, i poveri catechisti ai quali dobbiamo fare tanto di cappello, perché ecco, ma i preti, poi sì, i catechisti fanno così, è perché i preti, catechisti scritti istruiscono in questa direzione. I poveri catechisti che incominciano magari la catechesi ai ragazzini in preparazione alla prima comunione insegnando i 10 comandamenti, ma lasciate perdere i 10 comandamenti agli infizi. No, non sono più dei cristiani i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono degli ebrei, ecco, sono il decalogo consegnato, è vero che riflettono la coscienza universale, questo è di tutti, non fraintendetemi, perché io uso delle frasi un po' forti per scioccare, per portare a capire un'idea, ma Gesù dirà, no, io ho i miei comandamenti. Se Gesù è figlio di Dio, per manco Mosè è servo di Dio. Se Dio ci parla attraverso Mosè è un conto, se ci parla attraverso il figlio suo è un altro. Difatti nel quarto Vangelo agli inizi dice la legge ci è stata data attraverso Mosè, attraverso Gesù ci è stata data la grazia e la verità. E allora Gesù dirà, io sostituisco i 10 comandamenti con le 8 beatitudini. No, beati i poveri spiriti, beati, sono la sostituzione dei 10 comandamenti. Però c'è il guaio che se voi chiedete ai cristiani che vi dicano, dimmi un po' le 8 beatitudini, nessuno ne sa niente. Tutto ci va che riusciamo ancora a mettere insieme con un po' di fatica i 10 comandamenti, perché ci sono stati talmente inculcati, benissimo, insomma, che li ricordiamo ancora più o meno, ma le beatitudini niente. Eppure il cristiano ha le beatitudini, i comandamenti sono tutti al negativo, quasi, non. Ditemi se basta non ammazzare per essere cristiani, ditemi se basta non dire il falso per essere cristiani, ditemi se basta onorare il padre e la madre secondo il comandamento, che poi significava provvedere, onorare, perché non avevano mica né pensione né cliniche, né tante farmacie, ecco, significava che i figli dovevano provvedere, allora era quello il significato del comandamento, ma non è solo quello per Gesù, onorare il padre e la madre, ecco, no? E allora Gesù ha cambiato completamente lo spirito dei 10 comandamenti. Allora direi nella catechesi non cominciate dai 10 comandamenti, dobbiamo cominciare da Gesù per capire tutto. Il cristiano comincia da Gesù, comincia dall'Evangelo, per capire il peccato delle origini. Ecco perché ho fatto questo confronto, bisogna cominciare da Gesù, è Gesù che ci dà di capire il significato e il valore del peccato delle origini, di qualsiasi peccato, lo dirà poi anche Paolo, no? Dove sovrabbondò la grazia, dove sovrabbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. E allora partiamo dalla sovrabbondanza della grazia di Gesù, allora siamo veramente in un giardino, perché il cuore si allarga, perché entriamo in una visione più ottimista, più di speranza, più non così catastrofica come abbiamo montato tutta la dottrina del peccato originale. Ecco, questo confronto mi sembra molto importante. Vi dicevo, gli ebrei si erano fatti l'idea, la tradizione ebraica, che era disposto per preparare la legislazione del Sinai, i 10 comandamenti, Giovanni al Nuovo Testamento ci dice no, non basta più questo, bisogna entrare, superare lo spirito della legge ed entrare nello spirito dell'amore e poi tutto qui. Ma questo cammino l'avevano già fatto fare anche alcuni profeti dell'Antico Testamento. Vi ricordate quale profeta è il numero uno su questo argomento, su questo tema? Quale? Com'è? A Osea? Osea, quando vi dice piano, alto là, voi continuate a dire la fede ebraica è una fede che si basa sulla legge, sul dono della legge, e voi interpretate l'alleanza sinaitica in chiave legalistica, chiave di precetti. Se avete il coraggio oggi o qualche volta leggetevi qualche pagina del Levitico dove sono raccolte le principali leggi di santità, vedete che cosa c'è. Ecco, come Gesù abbia fatto saltare tutto questo, no? Ecco, e allora Osea diceva, voi avete interpretato l'alleanza, l'antica alleanza, l'alleanza con Mosè, l'avete interpretata in chiave legalistica, in chiave di precetti, in chiave di diritto canonico meno canonico. Il problema non è quello, il problema è di passare ad un'alleanza basata sull'amore, e di capire che Dio tutto quello che ha fatto per il suo popolo, e soprattutto il perdono dei peccati, eccetera, lo fa perché ama, perché vuol bene. È un anticipo in Osea, come sapete, del messaggio di Gesù del Nuovo Testamento. I grandi profeti dell'Antico Testamento, tipo Geremia, per esempio, verificate qui un po' lì nella storia, che figlio spirituale di Osea, un secolo più tardi, riprenderà i testi di Osea, passerà addirittura in Geremia 31:31 nell'annuncio della nuova alleanza per il futuro. Ecco, la nuova alleanza sarà questa, un'alleanza non più scritta sulle tavole di pietra, ma scritta nel cuore delle persone, nel cuore degli uomini, attraverso l'amore. E allora Gesù dice, no, basta, comandamenti sono per gli ebrei, la visione giuridica dell'alleanza è per gli ebrei, quali hanno anche dimenticato il messaggio di Osea, di Geremia, eccetera. Io vi dico che, ecco, la nuova alleanza è l'alleanza che deve portare non a fare degli uomini dei servi di Dio, ma a fare degli uomini degli amici di Dio, dei figli di Dio. Allora, in principio Dio aveva questo progetto, ecco, non era quello dell'alleanza sinaitica, ma era quello di portare attraverso il divenire, per carità, della storia, della rivelazione, la quale prevede come tappa grandiosa l'antica alleanza, ma portare a Gesù Cristo, questa è la visione cristiana, questa è la visione, senza merito dei cristiani, senza demerito degli ebrei, per carità, e tutta l'umanità cammina faticosamente alla ricerca, ma il credente cristiano è tale perché vede in Gesù Cristo questo superamento dell'antica alleanza. E il fatto che le cose devono essere interpretate così, l'avete in quel commento che Gesù fa, questo salto dall'antico al nuovo. Quando Gesù vi dice ci va il vino nuovo da mettere in otri nuovi, gli otri vecchi non servono più, perché non regge, bisogna demolire tutto il vecchio e mettere il vino nuovo in otri nuovi, no? E allora Gesù poi spiega perché ha superato i comandamenti. Avete udito che fu detto, e fa passare tutti i 10 comandamenti, come sapete, subito dopo le beatitudini. Avete udito che fu detto, ma io vi dico. Avete udito che fu detto, ma io vi dico. Ecco, più chiaro di così, se volessimo intendere, non avremmo grossi problemi. Ecco. Alcuni poi dicono, ma allora come la mettiamo? E proprio il Gesù di Matteo dice che non sono venuto ad abolire, ma a completare. Certo, è verissimo, Gesù non è venuto ad abolire l'antico progetto di Dio, è venuto a completarlo. Ma siccome l'antico progetto di Dio aveva preso direzioni sbagliate, e Gesù a un certo momento è costretto a dire, io vi dico come vedo questo progetto di Dio e come tento di realizzarlo, allora avete udito che fu detto, ma io vi dico, nello stesso tempo è profondo. profondamente vero che Gesù non vuole demolire per niente l'antico progetto di Dio, quello che Giovanni vi ha detto all'inizio, Dio aveva questo progetto, era questo, solo che era stato interpretato in chiave soltanto legalistico. Allora ecco perché quell'alleanza diventa antica, perché deve cedere il posto ad una alleanza basata sull'amore, sulla novità dell'amore. E allora lì comprenderete poi tutto il cammino faticoso della rivelazione, attraverso il Cantico dei Cantici, per esempio, e attraverso la rivelazione del Dio amore del Nuovo Testamento, dovuta a questa rivelazione in maniera più espressa a Giovanni. Io ho voluto collegare, adesso mi fermo un poco perché così respiriamo un momento dopo questa panoramica generale. Ho voluto ambientare un po' queste cose. Dicevo, il peccato, la storia del peccato va letta dai cristiani in parallelo con Gesù Cristo, se no diventa incomprensibile. Allora la nostra attenzione dovrebbe andare in primo luogo a Gesù, chiederci chi è stato Gesù, chi è Gesù per noi, che cosa ha detto, che cosa ha fatto, vedere questo cammino del passaggio dall'antica alleanza alla nuova, approfondire il significato delle beatitudini, renderci conto ancora che le beatitudini sono state ulteriormente ridotte, perché Gesù ha detto 8 sono un po' troppo, mi sa che non le ricorderanno sul serio a memoria. E già Luca, per la verità, ha detto: Matteo, tu ne hai messe 8, io dispongo diversamente, io ne metto solo 4. Ne metto 4, poi metto 4 guai, così faccio 8 anch'io, ma ecco, le cose sembrano più costringenti. Allora Luca ha 4 beatitudini e 4 guai, che poi guai non sono mandare la gente all'inferno. Ecco, guai in greco, c'è guai, e corrisponde alle lamentazioni ebraiche, le lamentazioni ebraiche sui morti. Proposito delle disgrazie, avvenivano attraverso lamentazioni che incominciavano così: guai, guai, guai. Ecco, allora guai viene fuori di lì, dice: guai significa che la vostra vita è persa se non va in quella direzione che vi dico. Ecco, significa poi quello, non significa l'inferno.